Tutti pensano che sia l'intellettuale, sempre così cupo, severo, insomma, introverso, invece no, Fabrizio era tutt'altro. Spesso però mi è capitato di sentire persone che ascoltano magari soltanto musica classica o jazz, eccetera, però Fabrizio ci sta sempre in mezzo, cioè è l'unico che al limite può convivere con queste altre realtà musicali e lui non ha mai cercato di fare niente di commerciale, ha sempre cercato di dire delle cose e queste cose interessano a ogni individuo indipendentemente dai loro gusti artistici. Ecco. Il nostro mondo attuale ce l'ha già raccontato prima, di conseguenza io penso che adesso forse lui volterebbe pagina. Visto che era sempre stata un artista imprevedibile, secondo me ci riporterebbe nell'area romanticismo in questo momento, che ne avremmo tanto bisogno. Ma Fabrizio De André che marito era? Con tutti i suoi aspetti negativi, ma tantissimi positivi, insomma, era uno che poi si comportava in modo tale che gli si perdonava veramente qualunque altro carenza o pecca, diciamo, e sarei pronta a ricominciare per altri 25 anni a vivere con lui sicuramente.